7. Ascolta e controlla. 1. Il professore ha molti libri. I professori hanno molti libri. 2. Il cameriere è giovane. I camerieri sono giovani. 3. Il giornale è italiano. I giornali sono italiani. 4. Il bicchiere è pieno. I bicchieri sono pieni. 5. Il dottore è gentile. I dottori sono gentili. 6. Il cognome è famoso. I cognomi sono famosi. 7. Il maglione è caldo. I maglioni sono caldi. 8. Il ristorante è grande. I ristoranti sono grandi.